4B. Ascolta e trasforma. Sono arrivato a Parigi. Quando sarò arrivato a Parigi, telefonerò a casa. Sono diventato famoso. Quando sarò diventato famoso, firmerò molti autografi. Sono dimagrito. Quando sarò dimagrito, comprerò un vestito nuovo. Sono sceso dal treno. Quando sarò sceso dal treno, compilerò il modulo. Sono tornata dalle vacanze. Quando sarò tornata dalle vacanze, lavorerò. Sono invecchiata. Quando sarò invecchiata, avrò i capelli bianchi. Sono riuscita a tradurre la poesia. Quando sarò riuscita a tradurre la poesia, riposerò. Sono uscita dalla classe. Quando sarò uscita dalla classe, incontrerò gli amici.